Bentrovati a questa nuova puntata di Soul Time sulle frequenze di Radio Wombat. Questa è la seconda puntata speciale dedicata a un locale storico che si chiama Golden Torch. Si chiamava Golden Torch. Nella scorsa puntata accennavo ai nomi storici, ai DJ e collezionisti storici che sono passati dal Northern Soul. Voglio ricordare il DJ resident Kate Minshew e il suo compare Chris Sweeting. Tanti altri nomi hanno selezionato Golden Torch da tutta l'Inghilterra, in particolare appunto dal nord dell'Inghilterra. Si ricorda Martin Ellis da Manchester, Colin Curtis da Stoke, Alan Day from Barton-on-Trent, Johnny Betts dalle Midlands e come ospite occasionale si è potuto ascoltare anche Pep da Wolverhampton e Tony Jepp da Blackpool. Inoltre a questi DJ in aggiunta si frequentavano i Golden Torch anche molti collezionisti come Graham Wall da Birmingham, che era famoso e conosciuto per fare frequenti viaggi negli Stati Uniti per trovare nuove gemme soul, e in particolare nota di costume si ricorda anche la figura di Brian 45 Phillips, soprannominato 45 proprio perché arrivava da Manchester con grandi quantitativi di 45 pollici che vendeva alla porta all'ingresso del Golden Torch. Tutti questi DJ cosa facevano? Portavano tantissimo soul nuovo che si poteva per appunto ascoltare per la prima volta in questo locale storico. Quindi questa prima parte di questa puntata voglio dedicarla, ho qui impilati 7-8 dischi, forse qualcosina in più, che sono stati suonati sicuramente per la prima volta al Golden Torch e ascoltati in Inghilterra sicuramente per la prima volta grazie a questi DJ, a questi collezionisti che ho citato poc'anzi. Il primo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, inedito per l'epoca in Inghilterra, era di Lenis Guess e si intitola Just Ask Me. Ci ascoltiamo quindi Lenis Guess. We'll be right back. era Lenny's Guess. Proseguiamo con la nostra selezione andandoci ad ascoltare Eddie Parker con questo pezzo che si intitola Love You Baby. Eddie Parker. Love You Baby di Eddie Parker. Quindi questa prima parte ci sarà molta musica, perché appunto voglio presentarvi tutti questi brani che furono ascoltati per la prima volta a Golden Torch negli anni 70. Proseguiamo con i Soul Twins e questo pezzo ha come titolo Quick Change Artists, The Soul Twins. But now I'm fine. rieccoci in studio. Quindi proseguiamo con il prossimo pezzo, che è dei Feathers Angels e si intitola Back to Back. Questo era uno strumentale bellissimo dei Feathers Angels intitolato Back to Back. Il prossimo pezzo che vi vado a presentare è di un gruppo che prende il nome di The Sequins, che rientrano appieno nella scena soul di Los Angeles e che arrivò in Inghilterra nelle valigette dei dischi dei DJ che hanno fatto la storia del Northern Soul. Questo pezzo dei The Sequins si intitola A Case of Love. Yeah. Sequins con A Case of Love. Il prossimo pezzo invece che ci andiamo ad ascoltare è di una voce fantastica, la voce è quella di Nolan Chains. Questo pezzo si intitola Just Like the Weather. Just Like the Weather. E a proposito di grandi voci, dopo Nolan Chains mi viene automatico da pensare a un'altra grandissima voce, che è quella di Maxim Brown. Quindi è già pronto sul giradischi questo pezzo del 1966 che si intitola One in a Million. La voce è di Maxim Brown. One in a million, a million to one. dopo Maxim Brown. Così proseguo con una certa rapidità nella selezione. Ora ci ascoltiamo questo pezzo dei Jazz Brothers che si chiama Sliced Tomatoes. Jazz Brothers. Gran brano strumentale questo dei Jazz Brothers, che appunto si intitolava Sliced Tomatoes, un brano del 1972. Quindi proseguiamo con questa selezione dedicata ai brani suonati per la prima volta in assoluto in Inghilterra, proprio al Golden Torch, e ne approfitto anche per un brevissimo cenno storico, perché anche visto il film Northern Soul avrà avuto modo di notare questa caratteristica di quegli anni lì, in cui i DJ andavano ad applicare una bella etichetta sul titolo e l'autore della canzone che stavano suonando, così per avere l'esclusiva sul brano. L'epoca era molto diversa, non eravamo nell'epoca in cui trovavi i brani su internet o con le applicazioni del telefonino, quindi era una vera e propria gara, oltre che tra i ballerini, anche tra i DJ e la selezione che andavano a proporre. Quindi il prossimo pezzo, che molto probabilmente, non ne ho la certezza, ma molto probabilmente girava sul giradischi del Golden Torch con una bella etichetta bianca appiccicata su, è questo pezzo dei Arkwright Orchestra e si intitola Temp Arright. We'll be right back. un altro gran pezzo strumentale direttamente dalla storia del Golden Torch. L'ultimo pezzo impilato per quanto riguarda gli inediti per l'epoca che in Inghilterra si sono potuti ascoltare grazie ai DJ e collezionisti del Golden Torch è questo pezzo dei Fuller Brothers che si intitola Time's a-Wasting, tra parentesi Soul Clock. Questi sono i The Fuller Brothers. Fuller Brothers, Time's a-Wasting. Quindi ci è rimasto più o meno un quarto d'ora, 20 minuti di trasmissione ancora liberi per ascoltarci un po' di musica. Nel trasmettere tutti questi brani inediti ho dimenticato un piccolo particolare, cioè di raccontarvi come è andata a finire l'epopea del Golden Torch. Come tutte le storie di successo, possiamo definirle tali, come quella proprio appunto di questo locale del nord dell'Inghilterra, inevitabilmente si sono presentati quasi fin da subito i primi problemi. Come dicevamo, il locale era situato in una zona residenziale, quindi il venerdì e soprattutto il sabato sera e la domenica mattina al termine delle all-nighter la zona era letteralmente sovraffollata, una zona non abituata ad avere tutta quella gente, ed era sovraffollata di ragazzi che avevano passato ore a ballare, ma anche a bere e a dilettarsi con un po' di anfetamine, diciamo così. Quindi questo grande movimento di gente, questo traffico di sostanze stupefacenti, possiamo definirle così in maniera politically correct, ha smosso fin da subito la polizia. Quindi Chris Barton ha fatto fin da subito, si è reso conto di questa situazione un pochino critica e ha fatto del suo meglio per cooperare e tranquillizzare sia le autorità locali che i residenti del quartiere. Nel 1973 però la licenza del locale era scaduta e per quanto riguarda il rinnovo c'è stata una forte, fortissima opposizione sia da parte appunto delle autorità locali che della popolazione del quartiere. Infatti anche i giornali locali all'epoca riportano titoli come a Tanstall è un club, è un centro di spaccio di sostanze stupefacenti, il 70% dei clienti è coinvolto nell'uso di sostanze stupefacenti, quindi c'erano anche tantissime lamentele da parte dei residenti riguardo il rumore proveniente dal locale. Si ricorda un piccolo aneddoto in cui un uomo che sporse denuncia addirittura andò a denunciare gli all nighters per aver mantenuto il suo cavallo sveglio tutta la notte. Quindi inevitabilmente il 16 marzo 1973 la licenza per il locale è stata rifiutata e Chris Barton, appunto il proprietario, non ha presentato ricorso, il club è praticamente svanito così, quasi all'improvviso. Quello che ha lasciato un po' l'amaro in bocca è stato che non c'è stata neanche un'ultima celebrativa all nighter, ma si è spento appunto tutto così, un po' all'improvviso. Quindi dopo questi cenni storici e questa anche velata malinconia rispetto a tempi mai vissuti, direi di proseguire sempre con una selezione dedicata appunto a questo storico locale. Ci andiamo ad ascoltare Lou Johnson con un pezzo che si intitola Unsatisfied. You leave me so unsatisfied. I long to make you mine. Lord knows how much I've tried. You turn from these times. I'm so unsatisfied. Don't you know that I love you so much that I can't be denied. Dopo Lou Johnson proseguiamo con un altro pezzo dal forte, fortissimo profumo All Nighter. Questo pezzo si intitola Stay, The Virginia Wolves. Mommy, don't mind. Rieccoci qui in studio sulle frequenze di Radio Wombat con Soul Time. Il prossimo pezzo che ci andremo ad ascoltare si intitola Cracking Up Over You di Roy Hamilton. Leggenda narra che uno dei più grandi ballerini di Northern Soul di tutti i tempi, che si chiama Frank Booper, su questo pezzo eseguì un passo di danza, per definirlo così, in realtà una vera e propria acrobazia, dopo essersi arrampicato su un muro eseguendo un backflip e poi atterrando sulla schiena. Appunto, leggenda narra che questo movimento fu eseguito su questo pezzo qui. Quindi ci andiamo ad ascoltare Cracking Up Over You, colonna sonora di una delle prime acrobazie del Northern Soul, la voce di Roy Hamilton. Just another fool, aching in heart, shaking inside, tearing apart. Baby, I'm cracking up over you, cracking up over you. Cracking Up Over You. Quindi il tempo appunto di cambiare un attimino disco, ci vuole un minimo di tempi tecnici. Ecco qua, è quasi pronto. Proseguiamo con la nostra selezione dedicata a Golden Torch. Il prossimo pezzo che ci andiamo ad ascoltare si intitola I Am In A World Of Trouble, sono in un mondo pieno di guai. Quindi, come potete immaginare, anche la classe operaia dell'epoca sicuramente poteva riconoscersi tantissimo in questi testi, oltre che a ballarci su, diciamo così, per sfogarsi, dimenticare e divertirsi. Quindi, I Am In A World Of Trouble è cantata dagli The Sweet Things. I've cried such bitter tears, I've forgotten how to smile. A questo punto direi, se è fatta una certa, l'orario a nostra disposizione è quasi terminato e con esso va a terminare la seconda puntata di due puntate speciali dedicate alla storia del Golden Torch e la musica che ci è passata dentro. Chiudiamo questa puntata quindi con un pezzo dei The Night Lighters, che si intitola KG. A risentirci alla prossima puntata con Soul Time su Radio Wombat.